Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Basta una parola per aprire un mondo nuovo davanti a noi. Forse sono io che dovrei vergognarmi, perché se il bambino non sa nulla, è colpa mia, no? Perché sono io il maestro, giusto? Ma proprio per questo ha delle grandi potenzialità e penso che può essere davvero utilizzata per insegnare a leggere e a scrivere a tutte quelle persone che non sono mai andate a scuola. Cosa crede? Di poter fare imparare alla gente in pochi mesi quello che a scuola impara in 5 anni? Non è mai troppo tardi. Non c'è limite di tempo, comincia quando vuoi. Puoi cambiare o rimanere come sei. Il maestro, virgola, dice il commissario, virgola, è un asino, punto. La scuola è una cosa seria, è un meccanismo delicato. Ah, ma così qua, scusi, nella scuola pubblica non ci andrà più nessuno, eh? Quando leggiamo la Costituzione sentiamo parlare degli alunni meritevoli. Qui di alunni meritevoli non si parla, si parla soltanto di insegnanti meritevoli. Cioè la Costituzione, boh, chissà dove è finita. La scuola per noi deve essere una scuola che funga da ascensore sociale. L'altro bambino, che magari è figlio di analfabeti, invece fa 30 errori. Che voto gli metto? Zero. Giusto, zero. Quello stesso bambino, la settimana dopo rifà il dettato, ma questa volta passa da 30 a 20 errori. Cosa faccio? Quel bambino è migliorato, no? Magari se gli scrivo che è stato bravo, la prossima volta di errori ne farà ancora di meno. E invece, secondo voi, gli devo dare di nuovo zero e trattarlo da somaro. Allora cosa devo fare io? Dire a quel bambino che può restare ignorante per tutta la vita? Sì, credo che la scuola media non serva per niente. Serve l'elementare perché per leggere e scrivere, per farti conto. Stefania Azzolini, laureata in biologia molecolare con il massimo dei voti, è un'insegnante precaria. Dottoressa Azzolini, che effetto le fa la provocazione di Moravia? Ovviamente non sono d'accordo alla provocazione di Moravia. La scuola non insegna solo a leggere e a scrivere. Lei da quanto insegna? 10 anni, sono 10 anni che insegno. Nelle graduatorie di esaurimento, nelle famose GAE da 8-9 anni. E che materia insegna? Allora, io insegno scienze naturali alle scuole superiori, biologia, chimica e scienze della terra e anche ho l'abilitazione sul sostegno. E da quanto è precaria? Sono 10 anni, 9 anni, sì, sono precaria. Ecco, adesso col decreto legge la buona scuola, il governo Renzi dovrebbe assumere 100.000 precari. Lei, se non ho capito male, è fra quelli. È contenta? No, non sono affatto contenta, nonostante nella forma dovrei rientrare nel piano assunzionale. Perché però dice perché dice la forma? Allora, perché in realtà sotto questo ricatto di false assunzioni passa uno stravolgimento della scuola statale per la quale io mi sono preparata. Perché credo che siano false assunzioni? Perché false? Perché non si tratta più di assunzioni come sono sempre state fatte finora con titolarità di cattedra. Di cosa si tratta? Sono delle stabilizzazioni triennali, che significa che noi delle GAE o vincitori di concorso finiamo in questi albi provinciali o regionali, comunque albi territoriali, da cui poi, senza titolarità di sede, veniamo scelti con discrezionalità del dirigente scolastico. Quindi mentre finora veniamo assunti. Vabbè, prima era un posto fisso garantito, adesso bisogna conquistarselo, un po' così. Però conquistare, cioè con una graduatoria che salta, cioè significa che comunque noi ora veniamo scelti ogni 3 anni e senza criteri chiari. Criteri di professionalità e probabilmente di efficienza. Come vengono certificati queste efficienze? E questo il decreto legge, no, la buona scuola non li definisce? Non dice niente di tutto. Lei sarà quindi oggi in piazza a protestare? Ass- assolutamente sì. Per quindi questo? Sciopero in non solo per questo. Anche per questo, il totale potere del dirigente scolastico. E insieme a queste finte, cioè queste stabilizzazioni, salta proprio la scuola statale intesa come organi collegiali. Professore Azzolini, però sì. Sul potere assoluto del capo d'istituto mi sembra che Renzi ha fatto marcia indietro. No, allora, sono delle piccolissime aperture, piccolissime, però ancora non ne sono state votate in Commissione Cultura, quindi sono cose dette, ancora non c'è niente di chiaro. Ma lei non crede che la scuola abbia in qualche modo bisogno di una riforma anche in senso meritocratico, non solo per gli studenti, ma anche per i professori? Assolutamente sì, infatti io non voglio passare per reazionaria, io credo in una riforma della scuola che passi attraverso gli investimenti e anche una valutazione in qualche modo degli insegnanti. No, però perché... questa valutazione. No, prego, sì. Scusi. No, perché questa valutazione non può passare solo attraverso il dirigente scolastico, e cioè lui solo. Vabbè, allora, ma il dirigente scolastico, l'ha detto anche lei, c'è già stata un'apertura su questa discussione. Non è che voi insegnanti volete una scuola in cui siete tutti uguali e non potete essere giudicati, perché questo è un po' quello che è capitato fino adesso. No, lo so, io sono personalmente per una valutazione degli insegnanti, però con delle regole che vengano, cioè con delle regole condivise, dove si sieda insieme a un tavolo per trovare il modo per valutare gli insegnanti. Quindi lei dice si tratta di definire bene i criteri di questa meritocrazia sui professori. Questo è il suo punto. Non calata così dall'alto. D'accordo, ma insomma, quindi da insegnante... Secondo lei il problema più grande della legge sulla scuola di Renzi è questo? Sì, ma ce ne ha tanti altri. Per esempio, chiede alla fine delle deleghe in bianco, significa che ci sono proprio dei numeri, come dei decreti attuativi che il governo dovrà fare in bianco, completamente in bianco, tipo la riforma del sostegno, la riforma della scuola d'infanzia. Cioè noi dobbiamo dare fiducia senza leggere di cosa si tratta, è una cosa gravissima. In più gli ATA non vengono per niente menzionati nel disegno di legge. Cioè gli ATA, cioè cosa sono? Il personale ausiliario della scuola che tiene in piedi tutto. E loro non vengono proprio menzionati. Ma se lei dovesse fare una domanda al ministro Giannini, cosa le chiederebbe? Una cosa precisa. Io voglio sapere come è venuto in mente a questo governo e al PD, che non ha mai parlato di chiamata diretta, di proporre una riforma del genere che richiama il modello di legge, cioè il disegno di legge Atria, contro il quale il PD si è duramente duramente combattuto. Contro il disegno di legge della Gelmini? Della Brea, che era per la chiamata diretta dei docenti. Cioè il PD si è opposto fortemente, e ora quindi, me lo sta riproponendo. E quindi lei chiederebbe al ministro Giannini come vi è saltato in mente di fare di volere i professori a chiamata diretta. Questa a è la domanda. Diretta. Ecco, ministro Giannini, buongiorno. Stefania Giannini, ministro dell'istruzione, dell'università, della ricerca. Allora, ministro, ha sentito, mi pare che il materiale di discussione non manchi. Intanto, come vi è venuto in mente di tornare alla chiamata diretta degli insegnanti, come chiede la nostra ospite? Buongiorno. Intanto buongiorno a lei, buongiorno alla professoressa e a tutti gli ascoltatori. Io ho sentito cose che meritano un commento, parto certo. Dalla domanda precisa che mi fa. Non c'è alcuna indicazione di chiamata diretta, che è tutto un altro meccanismo, contenuto nella legge Aprea, lo ricordo anche io molto bene, ma che non ha nulla a che fare con il disegno di legge che è in discussione in questi giorni, in queste ore nel Parlamento. Perché dov'è la differenza con l'Aprea? La differenza è che il nostro disegno di legge prevede un'assunzione non falsa ma vera di un virus strutturale che è quello del precariato storico, e devo dire, insomma, fa un certo effetto sentire chi ne è vittima da 10 anni non cogliere fa effetto perché lo rifiuta, l'importanza di questo elemento. Io le do un dato d'insieme, perché sì. Poi le singole storie sono sempre naturale, meritorie naturale, certo. di tutta l'attenzione possibile, ma bisogna Nel nostro caso chi ha responsabilità di governo o di attività parlamentare, guardare l'insieme delle cose, noi nel 2007 nel nostro paese siamo arrivati a un 18% di insegnanti precari. Cosa significa? Persone che venivano chiamate da giugno da settembre fino a giugno su posti, come diceva la professoressa, a cattedra, no? Su posti che invece hanno una loro stabilità. Certo. Questo è quello che c'è stato anche richiamato come possibile infrazione dalla Corte di Giustizia Europea, infatti, l'anomalia. Con questo disegno di legge, dottor Minoli, noi portiamo questo precariato anomalo tutto italiano ad una percentuale, i dati li ha anche calcolati Tutto Scuola, quindi una rivista assolutamente terza rispetto al dibattito in corso, al 2,5%, che è un dato fisiologico, perché è chiaro che ci sarà sempre una necessità di coprire per un periodo lungo a piacere cattedre di persone che sono docenti stabili ma che hanno motivazioni naturale per ecco ministro Giannini allora, però fa impressione questo, ecco, no, certo mi questo è un dato importante lo devo naturalmente dire, perché, insomma è una svolta storica, a parte i numeri che sono comunque straordinari, sono importanti, sono però numeri è importanti. Una svolta paradigmatica della scuola italiana e riconduce tutto alla normalità. Il metodo dell'assunzione è esattamente quello che è stato praticato sinora. Cambia che cosa? Cambia l'assegnazione dei docenti alle scuole, che, diciamolo pure, la professoressa non l'ha specificato, ora non entro in tecnicismi fastidiosi per chi non è del settore, e poi anche sul grado di tecnicismo vorrei dire qualcosa, perché non ho sentito parlare di studenti. Sì, però adesso arriviamo punto, a tutto. Su questo punto, no, però su questo mi scusi, punto. Signor Ministro, io volevo farle un'osservazione. Fa impressione però, tenuto conto di quello che lei dice, fa impressione sentire una persona che ha il diritto, perché gli è riconosciuto all'assunzione in questi casi, dire che si tratta di ricatto, di false assunzioni. Questo a me mi colpisce molto. Anche a me, però se poi viene classificato questo straordinario piano e lo sforzo enorme che questo governo sta facendo per ricondurre la scuola alla normalità e quindi alla qualità del lavoro che viene fatto come assunzione falsa, beh, allora diventa complicato confrontarsi. Comunque invito questa insegnante e tutti coloro che hanno questa visione a leggersi con attenzione gli articoli che riguardano questo punto, perché insomma il disegno di legge non è uno schema astratto, è un contenuto di principi e di metodi che è riassunto in questo caso in 24 articoli, e quindi c'è tutta una parte, articoli 8, 9 eccetera, che riguardano questo tema e che dimostrano che non c'è una chiamata diretta ma si sostituisce, stavo dicendo questo, sì, infatti, la graduatoria. E che cos'è la graduatoria? È quell'elenco ordinato gerarchicamente sulla base di frammenti di punto che derivano da aver fatto la supplenza da una parte, da aver avuto un corso di aggiornamento dall'altra, e quindi un oceano, diciamo, di instabilità, con un elenco che invece mette in chiaro il curriculum e il profilo dell'insegnante. Ecco, trasparente, allora, mi scusi, perché questo è l'altro punto fondamentale, articolo 14. E cosa vuol dire trasparente? Vuol dire, guardiamo anche alla scuola come centro della comunità, perché questo è quello che sta alla base di questo disegno di legge. Le famiglie, gli studenti quando hanno l'età per poterlo fare, tutta la comunità e gli insegnanti stessi troveranno tutti i dati che riguardano il funzionamento, l'organizzazione, ma anche il profilo didattico, come succede nelle università. Ecco, signor Ministro, però mi scusi, devo farle delle domande anche. Sì, la faccio parlare, ma le faccio delle domande. No, me le faccio. Appunto, dico, il Renzi stesso ha detto che questo sciopero, lui dice, è ridicolo, però intanto sui poteri appunto del dirigente scolastico ha iniziato a fare marcia indietro, cioè ci state ripensando sull'assoluto potere del dirigente scolastico? È una riflessione che è in corso, state facendola? Ma guarda, cioè è un'apertura, perché c'è uno sciopero, mi scusi un attimo, sì. C'è uno sciopero da 7 anni non accadeva uno sciopero così con tutti i sindacati rappresentativi della scuola, che significa che sette anni non ci si occupava di scuola per cambiare. Questo può darsi, però questo è possibile, però è anche possibile che se tutti i sindacati si mobilitano ci sarà anche una ragione, no? Ma certo, ma mi perdoni, due Prego. Fatti importanti. Allora, primo, Abbiamo scelto lo strumento del disegno di legge che è ora in discussione parlamentare alla Camera, che passerà al Senato. Proprio per tenere aperta la discussione. Proprio per tenere aperto. Benissimo, quindi non è l'apertura, come dire, di in seguito alla protesta. Sì, l'apertura di miglioramento, perché questo deve fare il Parlamento, portando anche le istanze naturalmente della società. Questa è la funzione costituzionale che hanno gli organi di governo nel nostro Paese. E sulla scuola lo facciamo e l'abbiamo fatto con convinzione perché riteniamo che sia l'argomento centrale. Quindi, nonostante che il dibattito sia andato avanti per un anno, lei si ricorda, ne abbiamo certo, già parlato come no. nella sua autorevole trasmissione grazie. Molti mesi fa, ecco, e noi continuiamo ad avere questa modalità di ascolto. Ecco, naturalmente, se vogliamo parlare del dirigente, che sembra essere un po' il punto. No, è un punto che viene sollevato come significativo, insomma, dal mondo della scuola. E quindi, io l'ho detto in altri casi e lo ripeto con convinzione. Noi riteniamo che il dirigente debba assumere le funzioni di responsabilità che ogni leader educativo, questo è il preside di una scuola, ecco, in tutto il mondo e anche in Italia, deve poter avere. A questo però facciamo corrispondere, la professoressa lo sa perché segue la scuola, ne fa parte e l'avrà visto la settimana scorsa, un accuratissimo sistema di valutazione che è già partito, che non è legato solo a questo disegno di legge, ma che finora non si era mai attuato, perché la scuola italiana non è impostata su una modalità valutativa. E mi scusi, la reazione allergica, diciamo pure, che c'è nei confronti della valutazione è testimoniata da mille indizi. Aspetti un momento, ministro Giannini, senta cosa ci ha detto Roger Abravanel, l'opinionista del Corriere della Sera, anche oggi ha scritto un pezzo sul Corriere, da poco ha pubblicato un saggio intitolato proprio La ricreazione è finita. Roger Abravanel, sul Corriere della Sera, lei oggi scrive che devono scioperare gli studenti e non i professori. Perché? Perché gli studenti italiani, che sono i clienti della scuola, non riescono ad avere un servizio adeguato, perché sono tre volte più disoccupati dei meno giovani, molto peggio che in tutti i paesi sviluppati, incluso la Grecia, e questo non è tanto per colpa della crisi, ma fondamentalmente di una scuola che non si è adeguata al mondo del lavoro. Il problema di fondo è che se lei va a chiedere ai datori di lavoro e ai giovani, il 70% dicono che i giovani non sono preparati per il lavoro. Il 70% degli insegnanti sostengono il contrario, perché gli insegnanti, una parte di loro, non tutti, ce ne sono di bravissimi e di molto aperti, non hanno capito che cosa è importante per il mondo del lavoro. Se loro non si rendono conto di questo, ovviamente non hanno nessun desiderio di cambiare. Ma il suo libro, lei parla dell'apprendistato tedesco, cioè dell'alternanza tra scuola e lavoro dai 16 anni in poi, come il modello da imitare. Questo è il punto centrale? È uno dei punti. Un altro fondamentale è che le nostre scuole devono inserire molto più meritocrazia nella qualità dell'insegnamento, meno nozioni e più capacità di ragionare con la propria testa, di interagire con gli altri. Ma le famiglie che responsabilità hanno in tutto questo? Nel mio saggio io ho un capitolo intitolato Le famiglie sono le fabbriche di disoccupati, perché purtroppo uno degli errori che commettono è quello di impostare le scelte dei propri figli sulle loro scelte. Cioè avere aspirazioni sbagliate che non tengono conto del mondo moderno, dell'evoluzione del mercato del lavoro. No, ma soprattutto delle passioni dei propri figli. Volevo dire che il mio saggio non è un saggio che fa proposte sulla buona scuola, l'ho già fatto in altri casi, è un saggio che dice se anche oggi si decidessero tutti di fare la vera buona scuola, ci vogliono 10 anni, visto che quello è naturale, necessario. Certo. Cosa devono fare i giovani oggi per invece assicurarsi di entrare nei 300.000 che ogni anno trovano lavoro? Devono in primis scegliere gli orientamenti giusti, che non sono quelli dei genitori, scegliere le scuole giuste. Oggi si parte dall'idea che le scuole sono tutte uguali, invece ci sono delle scuole ottime e delle scuole pessime, solo che non sanno scegliere, scelgono quelle vicine a casa. Scegliere se fanno l'università, un'università che gli apra veramente il mondo del lavoro, e poi fare questa forma di alternanza scuola-lavoro. E quindi ma non scegliere molto di più, con molta più responsabilità. Ma le scuole e l'università in Italia oggi certificano o no il merito degli studenti? il valore del voto si è perso. Ormai sono 8 anni che io segnalo su Corriere della Sera che al Sud ci sono il doppio dei 100 lode che alla maturità che al Nord, le lauree, i voti di laurea sono completamente inflazionati, e quindi quando lei parla con i datori di lavoro, io vengo dal mondo del lavoro, certo, loro le dicono che non credono più ai voti. Ma i test Invalsi o Pisa, secondo lei, sono la strada per avere almeno più meritocrazia e aiutare a scegliere meglio? Guardi, una delle prime cose che dovrebbe fare il ministro è rendere questi test Invalsi trasparenti, in modo che se io vado su un sito, è del sito della MIUR, e vedo che una scuola ha dei buoni test Invalsi, vuol dire che ha dei buoni insegnanti. Se lei però prova ad andare sul sito del MIUR, che si chiama La Scuola in Chiaro, non riesce a capirci niente, molte non ci sono, eccetera. Quindi bisogna rendere trasparente la qualità dell'insegnamento. Senta, ma se lei dovesse fare una domanda al ministro, che cosa gli chiederebbe? A cosa serve la scuola? Ah, ministro, una domanda chiave mi pare molto forte, quella di Abravanella. A formare persone che abbiano uno spirito critico, conoscenza e competenza. Senta, Yuri da Torino, ascolti un attimo, Yuri, perché ci sono molti sms, molte telefonate. Yuri da Torino scrive: buongiorno, gradirei capire perché questo governo, nell'ambito della riforma della scuola, si assume il merito dell'assunzione degli insegnanti, quando per questo problema siamo stati commissariati dall'Europa per un'anomalia tutta nostra. Yuri da Torino. Ecco, mi piace, ma non è così. Non è così, perché la sentenza europea non dà alcun obbligo di assunzione, può leggerla. Pone il problema, certo. No, dà un'indicazione molto forte, perentoria, sulla cessazione del precariato e sulla riattivazione dei concorsi pubblici. Esatto. E noi facciamo queste due cose. Che è quello che il... C'è Mario Secchi che vuole fare la domanda. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, avete fatto delle stime sull'adesione allo sciopero? Non ci aspettiamo, questa è una, come dire, una aspettativa si che vedrà stasera agli organizzatori. Vorrei però, mi scusi, sì, Abravanella ha tirato in ballo due temi fondamentali e non posso non commentarli molto sinteticamente. I ragazzi, ha ragione, devono scegliere e poter scegliere. Per scegliere bisogna conoscere ed essere informati. La trasparenza dei dati, quella che a lui chiama, è uno dei punti fondamentali di questo disegno di legge. L'ho detto prima parlando e commentando sull'intervento della professoressa. Scuola-lavoro e innovazione digitale, che non è solo le lavagne interattive multimediali, certo, ma è il cambiamento della modalità di insegnamento, certo, sono l'articolo 4 e l'articolo 5. Poi ha ragione lui quando dice ci vuole, per andare a regime con un nuovo metodo di lavoro nella scuola, ci vuole un ciclo di studi, quindi se non sono 10 saranno 8 anni. Naturalmente. Questo è ovvio, ecco. Ma altra competenza fondamentale su cui i nostri studenti partono veramente con un punto di handicap in Italia e all'estero, le competenze linguistiche. Ma le pare normale una scuola che non è in grado di dare a tutti gli studenti, naturalmente, non solo ai figli di coloro che possono mandare i ragazzi ogni estate a fare il corso estivo in paesi stranieri, una competenza certificata di una lingua straniera? Senta, questo è quello che noi vogliamo fare. Chi controlla i presidi nel vostro disegno di legge? La valutazione, il sistema di valutazione che comprende, l'abbiamo presentato la settimana scorsa, con visite ispettive, con tutta la valutazione esterna della scuola, ecco, con la misurazione dei risultati della singola scuola. E l'apprendistato sul modello tedesco resta un obiettivo oppure no, diventa realtà. Non chiaramente, sa, io credo Vabbè, che qui ci sia vuole bene il tempo, naturalmente. No, ma poi i tedeschi fanno le cose che si possono fare in Germania, noi facciamo quello che si può fare in Italia, ma scuola-lavoro diventa una realtà concreta dal 1° di settembre del prossimo. Senta, ma concedere detrazioni fiscali a genitori degli iscritti a scuole private paritarie non equivale in qualche modo a finanziarle? Equivale a riconoscere una libertà di scelta educativa che in Italia e in tutta Europa. E a finanziarle, in un certo senso, anzi abbastanza direttamente a finanziarle anche. Beh, se le devo dare il numero, questo è proprio un principio che viene introdotto, perché noi riconosciamo con questo disegno di legge 400 euro detraibili, che significa una possibilità di risparmio di circa 67 euro sulle rette di un anno. Tanto saperlo. Per darle un numero, la misura, no, è importante, contro 3 miliardi che diamo complessivamente a tutto il sistema. Senta, tuttavia il principio è sacrosanto, credo, per chiunque pensi che ci deve essere una libertà di scelta educativa. Teniamo conto che ci sono regioni italiane, viene cito una per tutte, il Veneto, in cui il 67% dei bambini, infanzia ed elementari, va alla scuola paritaria, perché quello è il sistema che sostiene il sistema nazionale. Ecco, siamo quasi in chiusura. La scuola paritaria si chiude la scuola. Sì. Senta, signor Ministro, siamo in chiusura, vorrei ancora fare qualche domanda, se può essere breve. Dal piano di assunzioni restano fuori quelli che hanno vinto l'ultimo concorso, gli idonei, no? Sì, ad oggi è così. Noi non abbiamo quindi hanno vinto il concorso, piano, hanno vinto il concorso, e che e fanno? Assimilati sulle gare a vincitori. E che fanno? Loro restano fuori. Non sono sì. solo gli idonei, ci sono no, tanti. Ma io parlo degli idonei che hanno vinto un concorso. Noi attiviamo un concorso. Cioè, loro hanno vinto il concorso e restano fuori. Per 60.000 sì. posti. Beh, attenzione, non hanno vinto un concorso, sono stati idonei, sì, certo. Una cosa è avere la patente, questa sì. è una cosa che va sempre spiegata nel nostro paese. Una cosa sì. è avere la patente e una cosa è acquistare la macchina. Senta, le dico una cosa che si sente in giro. Per le elezioni europee gli 80 euro. Per le elezioni regionali 100.000 assunzioni. Sono una cattiveria? Ma erano l'anno scorso questi dati presentati. Lei ricordi che noi abbiamo iniziato col percorso della buona scuola con una rivisitazione del progetto educativo. Ma le dice coincidono casualmente. Un'ultimissima cosa, dopo essere stata contestata la festa dell'Unità di Bologna, lei ha reagito violentemente, ha definito squadristi gli studenti precari, si è pentita? No, mi perdoni, non ho reagito violentemente, non ho detto una sillaba, sono rimasta nella mia posizione, c'è un filmato. Ho commentato il fatto e il comportamento. Ma perché ha avuto paura? Ho trovato veramente inaccettabile che si impedisse con un'aggressione forte di confrontarsi. Va bene. Grazie signor Ministro, buon lavoro. 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666 per gli SMS. Pubblicità. Mix 24. Haydi çabuk seni beklediğim zaman her saniye bir nasıl? El ele göz göze dizlerine yattığım zaman her şey benim. Senle benim arama girecek olanın ölümü yakındır. Pietrangelo, sei all'aeroporto, ma non potevi mancare questa canzone. Eccomi. Questa canzone perché oggi ho incontrato il derviscio. Lui danza col passo delle braccia allungate sulle stampelle che a volte diventano ruote sotto una sedia, ma anche un letto a volte, e lui danza abbracciando i suoi cari, suo padre che è un gigante premuroso, poi gli amici e lei, la sua ragazza, che sanno fare giostra di ogni sua camminata, tanto quanto il girotondo degli astri intorno al sole. E oggi ho incontrato il derviscio in metropolitana, giusto lui che ci sarà sceso solo una volta nei sotterranei di quel reticolo, ne ha fatto una saga, perché vede lo scheletro della città, tutta ferraglia e plasma umano in movimento, come Zazie, la bambina di Quenò, e come Borges, che della cecità ne ha fatto la visione per chi non sa guardare. Questo derviscio che non cammina ma danza, oggi incontrandolo mi ha dato la strada, mi ha trascinato nel suo abbraccio in una danza iblea di dune e sabbie dentro la metropolitana, dove è dilagato con lui, con la sua danza, tutto il mare di questa danza. Mario, una bolla, però Pietrangelo, ma ieri sera pensavo di vederti a 8:30, com'è che non sei andato? Sei andato all'aeroporto? Perché sono qui in aeroporto. Ah, non hai avuto tempo? Non ho avuto tempo. Potevi incontrare la Boschi e convincerla a venire da noi, peccato. Riuscirò. Le farò un agguato a Montecitorio. Va bene, allora Mario, la tua bolla. Vai. Bello, eh? Bello. Questo è The Panther. Mau di Bango. Insomma, musica molto interessante, come d'altronde tutto quello che sta succedendo nella contemporaneità, nel mondo politico anche. Beh, adesso che cosa succede secondo te, Giovanni? Renzi ha vinto, ha passato l'Italicum, andiamo avanti, un problema dopo l'altro, si risolvono quindi, tutti. Non c'è più il problema di Berlusconi. Non c'è più il problema della minoranza Dem. Secondo me il vero problema di Renzi, sai qual è? Quale? L'economia. Renzi, nel senso che è il classico problema di una leadership. Tra Renzi e Matteo il problema. Esatto, di una leadership che non ha, diciamo, un'opposizione né interna ormai né per il momento respira, per un momento respira. Sì, però sai... È il momento di fare le I cose. I sistemi hanno check and balance, sì, come sempre. Cioè. E secondo me la cosa da tenere d'occhio adesso è quindi parte, una seconda parte, certo, della storia di Renzi, scusando la ripetizione, è l'economia. Quindi c'è uno scenario di incertezza e non riguarda solo la sentenza della Corte Costituzionale sulle pensioni, cui costi sono ancora da scoprire. Da definire, vedere come saranno pagati. In ogni caso miliardi. Avremo però un quadro abbastanza... chiaro e preciso da Istat nel giro di pochi giorni, perché giovedì diffondono il rapporto sulle prospettive dell'economia italiana nei prossimi due anni. E venerdì, attenzione, arrivano i dati sulla produzione industriale di marzo 2015. Molto interessanti. Sì, vedremo se la ripresa arriva. Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Venerdì. Venerdì. Salamino! Siccome la nostra è la radiovisione, Giovanni, certo, io ho visto che qualche giornale l'ha fatto, però noi ci permettiamo un lusso, ed è questo. Ecco, noi accostiamo due fotografie, e sono quella di Francesca Marina, la bimba nata a bordo di una nave militare, figlia di una profuga e quindi Madonna in quel presepe di vita qual è la misericordia dei migranti, e poi la foto di Charlotte Elizabeth Diana, verosimilmente futura sovrana di Gran Bretagna e del Commonwealth. Accostare e vedere dunque. Siccome questa nostra è radio con visione, riusciamo anche a trasportare questo 5 maggio 2015 nel 2025, dove Francesca Marina e Charlotte Elizabeth Diana, bimbe di 10 anni, avranno modo di ritrovarsi a giocare in un campo di pallavolo, per esempio, dopo che si saranno lasciate alle spalle la prima la fuga, la seconda la bambagia. La prima dunque. Ecco, la prima offrirà in dono alla seconda il profumo di sale e acciughe del Mediterraneo, che è pur sempre acqua, ma trasformata in cibo. La seconda ricambierà con la nebbia dei pomeriggi, che è pur sempre acqua, ma evaporata in un'atmosfera struggente, dove gli alberi, graffiando il cielo, disegneranno gli amori per l'una e per l'altra per cantare nelle foreste. Let me bring you all things to fight. Ecco, nelle foreste, perché in queste due foto accostate questo si vuole raccontare, il ritrovarsi dell'una e dell'altra bimba nella stessa ruota, anche ad aver avuto ognuna una diversa mangiatoia. Sara, oggi che cosa ci racconti? Stupendo! Era la sigla di Dynasty, la prima serie americana anni 80 che raccontava le peripezie di una ricca famiglia, divorzi, tradimenti, gelosie, grandi passioni, ma niente in confronto alla famiglia Le Pen. C'è un padre padrone, Jean-Marie Le Pen, che viene cacciato a calci nel sedere dalla figlia, che pare, questo l'ho scoperto, si stia ancora vendicando da quando la scorsa estate il Doberman di suo padre ha sbranato il gattino di sua figlia, che poi tra l'altro sarebbe anche la nipotina del vecchio padre padrone, che però se ne frega e le fa sbranare il gattino. Il Front Nazionale è l'unico partito politico che mi avvince. È davvero incredibile come Jean-Marie Le Pen, l'intrepido e minaccioso maccione del Front Nazionale, si sia ridotto a un simpatico vecchietto. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. The Nox, questo è classic, fantastico, senti, senti. La regia è in gran forma stamattina. Allora, va bene, oh, in Sardegna noi avremmo detto Sumundus e furriavo a Sumbessi. Vabbè, tradotto? Il mondo va a rovescio. L'Independent si è schierato con i Tories. Accidenti. O meglio, facciamo una cosa un po' più precisa. Allora, si vota giovedì, quindi sì. È un'elezione molto importante. Sembra l'Italia con il Porcellum degli ultimi tempi, che per cui il Porcellum diede anche risultati molto certi, ma insomma comunque nessuno sa chi vincerà. Il governo, forse ci sarà, anzi ci sarà, ma probabilmente un governo di minoranza, e visto il caos, l'Independent, che come sanno certo lettori attenti è un giornale comunque di sinistra, progressista, eccetera, dice: beh, rispetto a un governo di minoranza del Labour con gli scozzesi che lo terrebbero sotto scacco, sì, e allora è meglio la conferma della coalizione tra Cameron e Clegg, quindi tra i conservatori e i Lib Dem. La cosa è, come puoi immaginare, abbastanza diciamo così, sorprendente, però la dice lunga sul fatto che in fondo non di solo Italicum o Porcellum o altro si tratta, ma di Inghilterrum. Ogni tanto abbiamo anche l'Inghilterrum. Abbiamo l'Inghilterrum. Non male, Salaminum. Dopo il Partito Liberale di massa, il Partito Repubblicano come contenitore. Ecco dunque la nuova idea di Silvio Berlusconi, perché messa in soffitta la rivoluzione liberale col popolo delle partite IVA trasformato nel nuovo proletariato, il cavaliere esce dalla irrilevanza e per darsi importanza vara il progetto di sfidare Renzi alle prossime elezioni in groppa all'elefante repubblicano. Però non è l'edera di Giorgio La Malfa o quella di Ugo Buonanima, ma proprio l'elefante, quello miricano. Ecco, e l'appuntamento all'esperimento tutto miricano lo trova però logorato, per dirla con Giampaolo Panza, logorato per età, per errori politici e di comportamento. Ma siccome già ci sono state diverse avvisaglie di passioni repubblicane nel campo di Silvio, lo ricordiamo, in principio furono i Teocon all'italiana, poi i Neocon alla matriciana, quindi i Tea Party alla trasteverina, ma prima che Berlusconi si avventuri nella più pazza delle possibilità, succederà quella di fare il partito azionista di massa, eppure pop, considerato che questo partito resterà comunque di sua proprietà, tutto a sue spese, non avrà altro destino che la monarchia. E quindi, per rendere omaggio anche a Giovanni, un inno, la Marcia Reale. Grazie. A Giovanni in quanto torinese. Mario, vai. Una bolla? Vai. Ehi, allora chiudiamo con Lenny Kravitz, non a caso American Woman. La corsa per le presidenziali negli Stati Uniti, paese che sorprende sempre, probabilmente Hillary Clinton nel campo democratico, e dall'altra parte è scesa in campo, come si dice, Carly Fiorina, che è la ex CEO di Hewlett Packard, una grandissima manager. Avrà una sfida difficile tra i repubblicani per farcela, però è interessante. Una sfida tra due donne, pensa se fossero due donne. Beh, che fantastico. Bello, molto dopo bello. Obama, due donne e si chiude il cerchio. Esatto. L'America insegna. Oggi che storia ci mandi in onda, Marina, dopo il giornale radio? Oggi, Giovanni, seconda parte della vita di Mussolini. Raccontiamo la creazione del culto del Duce, gli italiani durante il fascismo e poi la caduta fino alla fine, fino a Piazzale Loreto. Questa puntata è stata realizzata da Sergio Lecinski. Bene, dopo il giornale radio, la seconda puntata su Mussolini. Ma prima della pubblicità, Sei bellissima di Loredana Bertè.